Matrimonio in pericolo. Leggo nella Bibbia in 1 Corinzi, capitolo 7, versetto 5. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo, per un tempo per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Il rapporto di coppia è una delle espressioni di amore più belle. Non a caso nella Bibbia Dio utilizza spesso il rapporto uomo-donna come tipo del rapporto tra il Signore e il suo popolo. La separazione e il divorzio sono fenomeni in crescita continua, quasi raddoppiati negli ultimi 15 anni in Italia. Purtroppo sono fenomeni molto diffusi anche tra persone che dichiarano di essere cristiane. Ci possono essere vari motivi che mettono in crisi un matrimonio, ma questo verso mi ha fatto riflettere sull'importanza della comunicazione e della preghiera tra coniugi cristiani. Nel matrimonio la mancanza di comunicazione può portare a problemi molto gravi ed anche al naufragio del rapporto. Infatti, quanti uomini e donne coltivano risentimenti nei confronti del coniuge, ma non riescono a trovare il coraggio di parlare chiaramente? Spesso non osiamo dire all'altro ciò che davvero pensiamo. Ci teniamo per noi stessi le nostre sensazioni e ci costruiamo la nostra idea dell'altro, agendo nella convinzione che non valga la pena parlarne, tanto l'altro non ci ascolterà e se ci ascoltasse non capirebbe. Così rinunciamo al dialogo. Ma prima o poi tutto ciò che non abbiamo il coraggio di chiarire con il nostro coniuge diventerà talmente insopportabile che scoppieremo come una pentola a pressione, diventando aggressivi e irritati, usando le parole come pugnali e reagendo in maniera spropositata rispetto a quanto sarebbe stato necessario, peggiorando ancora di più la situazione. Alcuni coniugi diventano talmente rinunciatari a parlare in maniera schietta con il proprio partner da logorarsi interiormente, fino a cercare in un'amicizia extraconiugale lo sfogo ritenuto necessario, parlando con un altro, uomo o donna, di argomenti di cui non si riusciva a parlare con il proprio coniuge. Tali amicizie talvolta sfociano nell'adulterio. Il verso che abbiamo letto ci mette in guardia proprio sulla tentazione diabolica che si insinua nel rapporto quando i due coniugi non vanno d'accordo, allontanandosi l'uno dall'altra senza parlarne e senza pregare insieme. In questo modo espongono la loro relazione ad un grave pericolo. Alcuni si rifugiano nella scusa di un problema di incompatibilità di carattere, ma con questa espressione, come credenti, rischiamo di mascherare solo l'incapacità di sottometterci entrambi al Signore. Infatti, due cristiani che hanno il medesimo spirito e hanno Cristo nella loro vita, se affrontano la vita tenendo Dio e la sua parola al centro, pregando insieme quando ci sono difficoltà tra loro, troveranno in Lui l'aiuto necessario per superare gli ostacoli, per poi tornare a stare insieme, come dice questo verso. Se ci basiamo sulla compatibilità di carattere, possiamo dire che difficilmente esistono al mondo due esseri umani perfettamente compatibili. L'amore e il rapporto coniugale richiedono pazienza, dedizione e talvolta rinuncia per accogliere l'altro. Non priviamoci l'uno dell'altra, se non per pregare insieme, per risolvere insieme le difficoltà con l'aiuto di Dio, per poi tornare insieme come dice questo verso. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi riprendete il cammino insieme, con rinnovato amore, come indica questo verso. Qualunque altra strada porta solo problemi e miseria. A noi, al nostro partner e ai nostri figli.